Il libro di Giobbe è il classico esempio di sofferenza immeritata. Giobbe è duramente provato. Perde in poco tempo i beni, i figli e infine la salute. Come se ciò non bastasse, sua moglie non gli offre alcun aiuto e gli suggerisce di porre fine alle sue miserie, maledicendo Dio. Così l'intera sofferenza di Giobbe abbracciò la sfera economica, quella emotiva, quella fisica e spirituale. Eppure, Giobbe era un uomo spiritualmente e moralmente retto. Non poteva esserci una sofferenza più ingiusta. Avvenne che tre amici, sapendo della sua disgrazia, lo vanno a trovare, e il libro racconta la conversazione di questi tre amici con Giobbe. I tre amici rappresentano tutto ciò che la teologia ortodossa aveva da dire intorno alla sofferenza. Essi infatti ritenevano che la sofferenza fosse la conseguenza dei peccati di Giobbe, perciò prima velatamente, poi chiaramente, affermano che la sofferenza del suo amico costituisce la conseguenza inevitabile dei suoi peccati noti solo a Dio. Questo spiega perché la forma letteraria del libro è un misto tra il processo, il dialogo o la disputa. Questo libro mette in evidenza i limiti degli orizzonti nei riguardi di una conoscenza del problema della sofferenza, perché se essa è difficile da comprendere per chiunque, quanto più quando colpisce che non lo merita. Dopo che Giobbe e i suoi amici hanno finito i loro discorsi, discorsi nei quali non mancavano certamente sarcasmi, sfrecciatine, reciproche e ironia, ad un tratto, al capitolo 32 salta fuori un personaggio che era presente al colloquio di Giobbe con gli amici, ma che lo scrittore del libro non aveva nominato. Questa persona si chiama Elihu. L'intervento di questo giovane spettatore è particolare, perché spiegherà a Giobbe tre errori che egli aveva commesso parlando con i suoi amici. Prima di entrare in merito alla sua disamina, il giovane ascoltatore spiegherà il motivo del suo intervento. Poi, con quattro interventi, chiarirà dove Giobbe ha sbagliato e infine terminerà esaltando la grandezza di Dio. I discorsi di questo giovane costituiscono un ponte fra le insistenti rivendicazioni di Giobbe e i discorsi di Dio. La ragione per cui prendiamo in esame le risposte di Elihu è che le tre mancanze di Giobbe costituiscono i tre errori o dubbi fondamentali che l'uomo, inclusi certi credenti, ha verso Dio. I tre errori fondamentali sono: 1. Dio non mi ama. Nel profondo del cuore dell'uomo vi è il dubbio che Dio lo ami veramente. 2. Dio è ingiusto. È molto difficile essere convinti che l'agire di Dio sia sempre giusto, specialmente quando la sofferenza ci tocca personalmente. 3. Dio non si cura della mia giustizia. Si pensa questo soprattutto quando l'ingiustizia supera i livelli di sopportazione. Iniziamo a riflettere sulle ragioni dell'intervento di Elihu, 32:1-3. Allora questi tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe, perché egli si riteneva giusto. Ma l'ira di Elihu, figlio di Barachel il Buzita, del clan di Ram, si accese contro Giobbe. La sua ira si accese, perché questi riteneva giusto se stesso anziché Dio. La sua ira si accese anche contro i suoi tre amici, perché non avevano trovato la giusta risposta, sebbene condannassero Giobbe. Elihu viene presentato come una persona piena di ira verso Giobbe e verso i suoi amici. Nel libro di Giobbe, l'ira è stata l'anima delle conversazioni. I tre amici avversari avevano fatto adirare Giobbe, egli si era adirato con loro e con Dio. Giobbe intuiva che Dio era adirato con lui, ed ora anche Elihu era adirato. Dal contesto risulta evidente che quella di Elihu non sia ira nel senso di collera o furia, ma una santa indignazione, una giusta gelosia, perché non era stata onorata la verità e neppure la persona di Dio. Quante volte nella nostra vita siamo sdegnati perché la verità non trionfa? Chi non prova una santa gelosia? Chi non prova questi sentimenti può dubitare della qualità della sua fede. Perché Elihu era indignato contro gli amici? Un proverbio lo mette in evidenza. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fontana torbida e una sorgente inquinata. Proverbi 25:26. Il giusto che non sa rispondere o tenere testa all'empio non può portare del benessere, non disseta i bisogni dell'uomo. egli è come acqua inquinata. Perché Elihu è indignato contro Giobbe? Il salmista può rispondere a questa domanda. Eterno, essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Eterno, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Li considero miei nemici. Salmo 39, 20, 21. Colui che ama Dio non può provare che una santa avversione per coloro che si mettono contro Dio. Questa avversione nella parola di Dio viene chiamato un odio perfetto. Significa averli per nemici, non per antipatia, non per antico rancore, ma perché mettendosi contro Dio automaticamente sono anche contro chi ama Dio. Non esiste un cristiano che non ha nemici. Perché chi vuole vivere piamente sarà perseguitato. Gesù ricordò ai suoi discepoli che il mondo non odiava loro, ma lui perciò ogni espressione di contrarietà al Vangelo non era da ritenere una questione personale, ma un problema nei confronti di Gesù. Elihu era stato paziente durante tutta la controversia tra Giobbe e gli amici, deferente verso la loro età. Secondo l'usanza nell'Antico Oriente, 32:4. Un atteggiamento questo poco conosciuto ai nostri giorni. In Levitico 19:32 vi è l'ordine di onorare la persona del vecchio. E chi si comporta così onora? Dio. Questo è temere Dio. Secondo Deuteronomio 28:49-50, mancare di rispetto all'anziano è una cosa grave per Dio, al punto che lo fa notare. Quando però Elihu si rese conto che non c'era più risposta sulla bocca di quei tre uomini, si accese d'ira. Così Elihu, figlio di Barachel il Buzzita, prese la parola e disse: «Lo sono ancora giovane di età, e voi siete vecchi, perciò ho esitato e ho avuto paura a esporvi la mia opinione. Dicevo, parlerà l'età e il gran numero degli anni insegnerà la sapienza, ma nell'uomo ci è uno spirito ed è il soffio dell'Onnipotente che gli dà intelligenza». Non sono necessariamente i grandi ad avere sapienza o i vecchi a intendere la giustizia. 32:5-9. Elihu calca una grande verità. Non sempre l'età è segno di intelligenza. Da notare che al tempo di Giobbe, il vecchio era la persona che conosceva di più, che aveva più esperienza, mentre oggi un giovane può istruirsi molto di più di un vecchio. Nonostante questo, Elihu si rende conto che la sapienza viene dallo Spirito di Dio, come del resto afferma anche Paolo. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. 1 Corinzi 2:11. Quindi un giovane può essere più intelligente, che non è sinonimo di istruito di un vecchio, soprattutto quando legge e ubbidisce alla parola di Dio. Ecco quanto ha testimoniato il salmista: «Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione, punto. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi, perché tu mi hai istruito. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò detesto ogni doppiezza. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». SL 119, 97-105. Secondo il salmista, l'intelligenza stava nel conoscere e osservare i comandamenti. Gli amici di Giobbe cercavano qualcosa da dire, ma non avevano da dire qualcosa. Pare solo un gioco di parole, ma la differenza è notevole. Quando si cerca qualcosa da dire, significa che si parla senza avere nulla da trasmettere, mentre chi ha da dire qualche cosa ha un contenuto da comunicare. Perciò, più che cercare di vincere la conversazione, dobbiamo avere l'obiettivo di parlare al cuore del nostro ascoltatore, perché una sconfitta intellettuale può risultare in una vittoria spirituale. Elihu non riesce a star zitto e continua col dire: presenterò anch'io la mia parte, esporrò anch'io la mia opinione, poiché sono pieno di parole e lo spirito dentro di me mi costringe. Ecco, il mio seno è come vino che non ha sfogo, come otri nuovi sta per scoppiare. Parlerò dunque per averne un po' di sollievo. Aprirò le labbra e risponderò. Permettetemi ora di parlare senza mostrare parzialità con alcuno e senza adulare alcuno, perché io non so adulare, altrimenti il mio fattore mi toglierebbe presto di mezzo. Elihu aveva bisogno di parlare per avere un po' di sollievo. Tutti abbiamo o dovremmo fare questa esperienza quando abbiamo qualcosa da trasmettere. Dopo aver considerato che nessuno è in grado di rispondere, un figlio di Dio ha un fuoco santo che non gli permette di stare zitto. E lo zelo di Dio. I profeti hanno provato questo. Nella città di Atene, l'apostolo Paolo, nel vedere tanti idoli, non stava più nella pelle e ha dovuto annunziare il Vangelo di Cristo. Ogni figlio di Dio dovrebbe avere questo atteggiamento, mentre ogni uomo dovrebbe sperimentare la necessità di parlare in merito al peccato, per confessarlo davanti a Dio. Infine, Elihu termina dicendo: permettetemi ora di parlare senza mostrare parzialità con alcuno e senza adulare alcuno, perché io non so adulare, altrimenti il mio fattore mi toglierebbe presto di mezzo. 32:21-22. Non solo Elihu voleva rispondere a Giobbe come si doveva, ma voleva anche farlo senza parzialità. L'imparzialità è un raro dono. Giacomo mise l'atteggiamento imparziale di fianco all'amore. Giacomo 2:8-9. Ne consegue che sia possibile amare senza essere imparziali. Elihu non voleva adulare. Molti credenti scambiano l'adulazione per l'incoraggiamento. Adulare significa lodare falsamente, lusingare, piaggiare, lisciare, e questo è molto negativo. Incoraggiare invece significa animare, incitare, confortare, spronare, e questo è positivo, e da ricercare. Teniamo presente ciò che è scritto. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, e l'uomo è provato dalla bocca di chi lo loda. Proverbi 27:21. Quando lodiamo qualcuno gli facciamo del male perché lo mettiamo alla prova, mentre l'incoraggiamento è sempre positivo. L'Eterno disse a Mosè di incoraggiare Giosuè, Deuteronomio 3:28, non di adularlo. La Chiesa ha bisogno di uomini e donne che abbiano il raro ministero di incoraggiamento. Il primo discorso di Elihu, Dio ti ama. Dopo aver spiegato le ragioni per cui era stato zitto, Elihu inizia a rispondere direttamente a Giobbe, in merito alle sue valutazioni sbagliate su Dio. Ora dunque, Giobbe, ascolta ciò che ho da dire e porgi orecchio a tutte le mie parole. Ecco, io apro la bocca e la mia lingua parla nella mia bocca. Le mie parole vengono da un cuore retto, le mie labbra proferiranno pura conoscenza. Lo Spirito di Dio mi ha fatto, e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita, se puoi rispondimi. Preparati pure a difendere le tue posizioni. Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io sono stato formato dall'argilla. Ecco, nessuna paura di me ti dovrebbe spaventare, e la mia mano non graverà su di te. 33:1-7. Per prima cosa, Elihu si presenta come un uomo normale, non intendeva spadroneggiare sul sofferente come avevano fatto i tre amici. Egli ammette l'uguaglianza con Giobbe, perché entrambi erano dei fragili esseri umani. Questo atteggiamento è molto importante per qualsiasi conversazione, specialmente se ci troviamo davanti una persona che ha ceduto al dolore. Spesso ciò che impedisce le persone a confidare o credere in Cristo è proprio il nostro modo di parlare, perché alla fine abbiamo presentato delle convinzioni senza esperienza, oppure abbiamo imposto un credo al quale aderiamo, ma non la persona divina di Cristo. Elihu si presenta come un uomo alla pari, ma esprime la sua sincerità e onestà di cuore. Anche questa caratteristica dovrebbe essere di ogni credente, perché a Dio piace, o ama, La verità che risiede nell'intimo, Salmo 51, 5. Un elogio all'integrità e alla coerenza lo troviamo nel Salmo 15. Elihu continua il suo dire, 33, 8, 11. Tu però hai detto alle mie orecchie, e ho udito il suono delle tue parole, che dicevano io sono puro, senza peccato, sono innocente, non chic, è in me alcuna colpa. Ma Dio trova contro di me motivi di ostilità, e mi considera suo nemico, pone i miei piedi nei ceppi e osserva tutti i miei passi. Le parole di Giobbe forse ci stupiscono, ma probabilmente in fondo al nostro cuore molte volte abbiamo pensato le stesse cose. Così, ciò che dice la parola di Dio deve essere oggetto di attenzione perché è anche per noi. La pretesa di giustizia da parte di Giobbe non è unica. Mi chiedo se noi siamo coscienti della nostra natura peccaminosa o, se ci spingiamo più in là, se abbiamo delle colpe. Chi non riconosce questo è destinato ad avere una vita di fallimento. Una sorella in fede era molto ammalata e molto provata. E sua figlia mi disse, e una brava donna non merita tanta sofferenza. Capite? Non meritava. E qui, la pietra d'inciampo. Ci domandiamo perché tutte capitano a me, mentre se fossimo coscienti di quello che siamo, saremmo stupiti perché non capitano tutte a me. Lo spiego con un esempio. Quando un giorno ho avuto occasione di vedere guidare qualcuno che aveva preso da poco la patente, tutto ad un tratto ho aperto gli occhi e mi sono stupito come mai capitano così pochi incidenti. Noi siamo stupiti di quanti morti falcia la strada, soprattutto di giovani, ma se andassimo al sabato sera nelle discoteche e vedessimo quanto bevono e quanta droga prendono i giovani, allora ammetteremmo che è un miracolo se avvengono così pochi incidenti. Giobbe pensava che Dio fosse ostile e nemico, e non vi è un pensiero più pericoloso di questo. Noi andiamo in crisi. Siamo depressi nel momento in cui pensiamo che nessuno ci ama. E soprattutto se questo è Dio. Ma se siamo coscienti che Dio ci ama, allora la vita ha tutto un altro colore. Dio ama l'uomo perché Dio è amore. Ciò significa che non è possibile che egli non ami, perché non può cambiare la sua natura. Come il sole per natura non può fare freddo, così Dio non può odiare, non può fare il male del male. Chi mette in dubbio questo commette certamente uno dei più grandi errori. Elihu continua la sua disamina. 33, 12-13. Ebbene, io ti dico che in questo non hai ragione, perché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui, dato che egli non rende conto di alcuno dei suoi atti? Essendo Dio più grande dell'uomo, egli non si perde a perseguitare qualcuno. Quando agisce, non è costretto a dover rendere ragione agli altri, quindi il suo operare è retto. Questa premessa è importante perché le liti fra uomini avvengono quando vi è una certa parità, altrimenti queste cesserebbero. Può esistere una lite fra un bambino e un adulto? Può esistere una lite fra un servo e un padrone? Può esistere una lite fra l'insegnante e lo scolaro? Chi di noi non ha visto la scena di un piccolo cane che abbaia dietro ad uno più grosso di lui? Due volte tanto. Il cane grosso non si scompone, continua la sua strada come se il cagnolino non esistesse. È troppo piccolo per interessarsi di lui. Proprio perché Dio è eccelso, Elihu continua dicendo, 33, 14, 22. Dio infatti parla in un modo o nell'altro, ma l'uomo non ci bada. In un sogno, in una visione notturna, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando stanno assopiti sui loro letti. Allora egli apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che dà loro per distogliere l'uomo dalle sue azioni e tener l'uomo lontano dalla superbia per scampare la sua anima dalla fossa e impedire che la sua vita perisca per la spada. Wempo. L'uomo è pure ammonito con il dolore sul suo letto e con il tormento incessante nelle sue ossa. Sì, da aver nausea del pane e persino dei cibi più squisiti. La carne si consuma a vista d'occhio, mentre le sue ossa che prima non si vedevano spuntano fuori. Così la sua anima si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Dio non contende ma parla. e l'uomo non tiene conto del messaggio di Dio. Elihu vede due strumenti che Dio usa per parlare e avvertire gli uomini, il sogno e la sofferenza. La parola di Dio afferma che il sogno è il risultato di molti occupazioni, Ecclesiaste 5:3. Infatti nei sogni noi rispecchiamo un po' tutte le tensioni che abbiamo accumulato nelle giornate che ci hanno precedute. Quindi per sogno è evidente che si intende qualcosa di particolare che si deve distinguere dai sogni normali. La sofferenza è un altro mezzo che Dio usa per parlare all'uomo, e forse possiamo dire il mezzo più comune, però è talmente comune che l'uomo non ci fa caso, perché in fondo tutti soffriamo. Se soffrissero solo i malvagi, allora sarebbe chiaro l'avvertimento di Dio, ma dal momento che anche il credente non è esente dalle tribolazioni, dalle difficoltà, allora noi uomini facciamo fatica a capire il messaggio che porta il dolore. Infatti Giobbe era un uomo giusto, ma soffrì molto. Si deve anche riconoscere che alcuni credenti non hanno un giusto atteggiamento verso la sofferenza. Essi per ogni difficoltà si pongono il problema di quale sia la volontà di Dio, oppure si chiedono con una certa ansia che cosa vuole insegnare Dio in quel frangente. La prima cosa che dobbiamo ricordarci è che prima di essere dei cristiani noi siamo degli esseri umani e quindi come ogni essere umano anche noi siamo soggetti a malattie, ad infortuni, a difficoltà. La maledizione che cadde su Adamo ed Eva vale per tutti. La donna partorisce con dolore, il lavoro è duro, il risultato sarà tribolazione e spine, alla fine vi sarà la morte. La seconda cosa che dobbiamo ricordare è che ogni sofferenza serve per correggere il nostro carattere e i nostri difetti. Sottometterci a Dio significa anche accettare di buon grado le difficoltà che abbiamo e lasciare che esse ci modifichino. Se noi siamo gli stessi credenti che eravamo quando ci siamo convertiti, significa che Dio non ci ha corretti, perché essere corretti significa cambiare. Oltre ai sogni e alla sofferenza, Dio parla all'uomo tramite un suo diretto intervento, 33:23-28. Ma se presso a lui vi è un angelo, un interprete, uno solo fra mille, che mostri all'uomo il suo dovere. Dio ha pietà di lui e dice, risparmialo dallo scendere nella fossa, ho trovato il riscatto per lui. Allora la sua carne diventerà più fresca che nella sua fanciullezza, ed egli tornerà ai giorni della sua giovinezza. Supplicherà Dio, troverà grazia presso di lui e potrà contemplare il suo volto con giubilo, perché Dio avrà ristabilito l'uomo nella sua giustizia. Rivolgendosi alla gente dirà, ho peccato e violato la giustizia, e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato la mia anima, perché non scendesse nella fossa e la mia vita può vedere la luce. Dunque, dopo che Dio ha parlato mediante i sogni e mediante la sofferenza, ora parla tramite un angelo. Non si deve subito pensare che Dio mandi un essere celeste con le ali per avvertire gli uomini quando sbagliano, perché il mondo sarebbe pieno di angeli, ma quando la scrittura si riferisce ad un angelo intende un messaggero, cioè ogni persona che dice una buona parola da parte di Dio. Se qualcuno porta la conseguenza di un comportamento sbagliato e noi comprendiamo e sfidiamo il suo errore con amore, allora la persona si accetta quelle parole da parte di Dio, si ravvede, riconosce di aver sbagliato e cambia condotta. Dobbiamo ricordare che molte malattie sono la conseguenza di una condotta sregolata. Infatti la vita normale di un figlio di Dio dovrebbe essere vissuta in salute. Giacomo dice nella sua lettera, se qualcuno è infermo, come ancora? Se qualcuno manca di sapienza, intendendo con questo che lo stato normale del credente è la salute e la sapienza. Infine, Elihu termina questa parte del discorso dicendo, ecco, Dio fa tutto questo due volte, tre volte con l'uomo, per scampare la sua anima dalla fossa e per illuminarlo con la luce della vita, 33:29-30. Dunque l'amore di Dio non molla la sua creatura. Quando sbaglia, Dio parla in tre modi, insiste anche tre volte. Il che, se vogliamo fare i conti, sono quasi 10 volte. Chi può dire che Dio non ami la sua creatura. Noi siamo chiamati a credere in Gesù Cristo, adorarlo, servirlo, senza badare alle circostanze della vita perché l'opera di Dio è inspiegabile e anche se il saggio pretende di saperla. Non però può trovarla, Ecclesiaste 8:17. Come Giobbe, non ci rimane che riconoscere la nostra ignoranza e colpa e stare più attenti agli avvertimenti di Dio. Quando siamo in distretta, riflettiamo che l'errore di Giobbe non sia il nostro. Il secondo discorso di Elihu, Dio non è ingiusto. Abbiamo considerato che Giobbe ha lanciato tre accuse verso Dio. Dio non mi ama, Dio è ingiusto. Dio non si cura della mia giustizia. Tre accuse che possono ancora albergare nel cuore di ognuno di noi. Una volta che il patriarca ha lanciato a Dio l'accusa di non amarlo, il passo è stato breve per giungere pure a affermare che egli era anche ingiusto. Elihu si rivolge prima di tutto agli anziani, visitatori, e chiede loro di essere ascoltato. 34:1-4. Elihu riprese a parlare e disse: «Ascoltate, o saggi, le mie parole, e voi, dotti, prestatemi orecchio. Poiché l'orecchio esamina le parole, come il palato assapora i cibi. Scegliamo noi stessi ciò che è giusto, riconosciamo fra noi ciò che è buono». Elihu si rivolge ai tre amici chiedendo loro di provare l'accuratezza dei suoi discorsi come il palato. Può sentire le qualità delle vivande. Poi continua col dire, 34:5-9, poiché Giobbe ha detto: «Sono giusto, ma Dio ha tolto via la mia giustizia. Dovrei mentire contro la mia giustizia. La mia ferita è incurabile, benché sia senza peccato. Chi è come Giobbe, che beve la derisione come l'acqua, che cammina in compagnia dei malfattori e vada assieme ai malvagi? Poiché ha detto: non giova nulla all'uomo riporre il proprio diletto in Dio». Elihu fa rilevare che Giobbe ha detto due cose sbagliate e che la seconda è la conseguenza della prima. A. Giobbe ha detto che egli è giusto, ma Dio non gli riconosce la sua giustizia. B. Non serve nulla all'uomo avere fiducia in Dio. Dunque, Giobbe ha tirato fuori il suo vero problema, la sua giustizia. Il fatto è che Giobbe non aveva tutti i torti, perché anche Dio aveva riconosciuto che egli era un uomo integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Perciò Elihu continua dichiarando, 34:10-11, «Ascoltatemi dunque, uomini di senno. Lungi da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente la malvagità, poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere e fa trovare a ognuno il salario della sua condotta». Elihu afferma prima di tutto che in Dio non vi è iniquità e che le sofferenze dell'uomo sono la conseguenza dei suoi errori. Partire dal presupposto che noi siamo limitati e quindi soggetti a sbagliare ci rende idonei per avvicinarci alla comprensione della Scrittura. Quando non era cristiano e leggevo il Vangelo c'era soprattutto un passo che mi dava molto da pensare. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto, anche quello che ha. Mi rendevo conto di essere di fronte ad un'affermazione dove l'ingiustizia risaltava in un modo apparentemente evidente e pregai: «Signore, io so che tu sei giusto, perciò se vedo dell'incoerenza nel tuo modo di agire è perché io non capisco». Questo atteggiamento mi ha reso in grado di comprendere la Scrittura e da quel giorno ho mantenuto questa attitudine. Tutte le volte che trovo un'apparente contraddizione nella parola di Dio, ammetto la mia ignoranza e aspetto che Dio mi dia chiarezza in proposito. Anzi, a volte ne gioisco perché so che qualcosa di meraviglioso è nascosta in quella contraddizione e aspetto con gioia il momento della rivelazione. Fate così anche voi? Poi Elihu afferma che l'uomo soffre perché riceve il risultato della sua condotta. Anche questa verità è importante perché non possiamo sempre incolpare Dio di ogni cosa. Se io corro forte in macchina oltre il dovuto, non posso incolpare Dio se mi accade un incidente. Se mi prendo una polmonite perché mi sono trascurato, la colpa è solo mia. Forse questo ragionamento siamo anche pronti ad accettarlo, ma quando si tratta di cose più gravi, allora nascono delle difficoltà. Ne è un esempio la sorte del popolo di Israele. Israele è stato un popolo che ha sofferto molto, un popolo perseguitato da ogni parte del mondo, eppure quello che succede o che è successo è stato il risultato della sua condotta, risultato tra l'altro predetto dall'Eterno. Più volte, tramite il profeta Ezechiele, egli ha detto: «L'iniquità della casa di Israele e di Giuda è estremamente grande. Perciò anche il mio occhio non avrà compassione, e non userò alcuna pietà, ma farò ricadere sul loro capo la loro condotta». 9 e 10. Il discorso dell'Eterno è questo: visto che non vogliono ascoltarmi, io farò in modo che il male che fanno torni loro addosso. Quindi, mi stanco di impedire che il male gli accada, ora lascio che ogni cosa segua il suo corso. E, come per la trasgressione del codice stradale, passo con il rosso e tutto mi va bene. Adesso, dice Dio, tutte le volte che passi con il rosso lascio che ti capiti un incidente. Capite? Non è Dio che manda il male, ma egli, che sempre è stato misericordioso, smette di agire a favore di chi non lo vuole ascoltare. Dobbiamo confessare che a volte, quando siamo arrabbiati o scocciati con qualcuno, ci comportiamo così. Non interveniamo più a suo favore. Questo rende felice la persona perché non si sente più scocciata o infastidita, o addirittura pensa che noi la amiamo, ma purtroppo le cose non sono così. Ancora una volta i metodi di Dio capovolgono i nostri pensieri. Elihu continua a spiegare a Giobbe perché Dio non può essere ingiusto. 34:12-15. Certamente Dio non compie il male, e l'Onnipotente non sovverte la giustizia. Chi gli ha affidato la cura della terra? O chi lo ha costituito sul mondo intero? Se Dio dovesse decidere in cuor suo di ritirare a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne perirebbe assieme e l'uomo ritornerebbe in polvere. Elihu fa presente a Giobbe che non è possibile che Dio sia ingiusto, perché egli governa il mondo di sua volontà e nessuno gli ha dato l'incarico. Questo aspetto è importante perché l'uomo spesso è ingiusto quando svolge un lavoro che non gli piace, ma nessuno è ingiusto in un lavoro che egli stesso si sceglie, perché andrebbe contro il suo interesse. Se Dio fosse ingiusto, sarebbe egoista e quindi penserebbe solo a se stesso e nessuno potrebbe vivere. B. Nessuno potrebbe vivere perché questo mondo sarebbe governato da leggi ingiuste. C. Il mondo sarebbe nel caos più totale, perché sarebbe in balia di se stesso. Perciò Elihu continua col dire. 34:16-19. Se hai intendimento, ascolta questo. Porgi orecchio a ciò che ti dico. Uno che odia la giustizia potrebbe governare. Osi tu condannare il giusto, il potente? Lui che dice a un re: sei spregevole e ai principi siete malvagi. Ma egli non usa alcuna parzialità con i grandi, né considera il ricco più del povero, perché sono tutti opera delle sue mani. Le domande di Elihu sono più che sensate. Un ladro potrebbe amministrare giustamente del denaro. Uno che odia la musica potrebbe dirigere un'orchestra. Come può uno che non è giusto governare il mondo con delle leggi giuste? Potrebbe un vigile governare un traffico con delle leggi ingiuste? Potrebbe un adultero proteggere un harem? Non ti rendi conto, dice Elihu a Giobbe, che stai condannando colui che viene chiamato il giusto e il potente? E assurdo giudicare Dio ingiusto. E lo fa con due esempi. A. Prima di tutto Dio non ha paura dei potenti perché sono portati via senza mano d'uomo. Se consideriamo attentamente ciò che fa diventare ingiusti gli uomini, spesso è la paura dei potenti, di coloro che possono. B. Inoltre, Dio non tiene conto della posizione sociale, perché sia il ricco che il povero sono opera della sua mano. Il denaro per Dio non ha valore quando si tratta di giudicare, perché egli non è condizionato dal denaro come noi uomini. Spesso ciò che rende ingiusti gli uomini è non solo la paura della potenza fisica, ma anche il fare differenza riguardo alla posizione sociale, perché è sempre una potenza. In Dio tutti questi errori non possono sussistere perché sono opera della sua mano. Elihu continua affermando, 34:21-32, Dio tiene gli occhi sulle vie dell'uomo, e vede tutti i suoi passi. Non vi sono tenebre né ombra di morte, dove possano nascondersi i malfattori. Dio, infatti, non ha bisogno di osservare a lungo un uomo prima di farlo comparire davanti a sé in giudizio. Egli fiacca i potenti senza fare inchiesta e ne mette altri al loro posto, poiché conosce le loro opere. Li abbatte nella notte e sono distrutti. Li colpisce come gente malvagia alla vista di tutti, perché si sono allontanati da lui, senza prestare attenzione alle sue vie, fino a far giungere a lui il grido del povero. Perché egli ode il grido degli afflitti. Quando Dio dà tranquillità, chi lo condannerà? Quando nasconde il suo volto, chi potrà vederlo, sia contro un'intera nazione o un solo uomo? Adesso Elihu presenta l'onniscienza di Dio unita alla potenza. Dio conosce tutti, fa accento grave quello che vuole. Con i potenti, ma non per capriccio, ma perché si sono allontanati da lui. Si chiede chi è colui che può condannare l'operato di Dio quando egli dà tranquillità a qualcuno, oppure quando produce turbamento. Chi ha il coraggio di giudicare Dio? E per questo Elihu chiede a Giobbe, versetto 33, «Dovrà forse Dio render la giustizia a modo tuo perché tu lo critichi? Ti dirà forse, scegli tu, non io, quello che sai, dillo?» Questo finale di Elihu era inevitabile. Se tu ritieni ingiusto Dio e il suo operato, allora cosa deve fare Dio? Deve forse giudicare e ricompensare secondo il tuo metro? Hai forse un giustizia e una conoscenza maggiore di Dio? Queste domande non possono lasciarci indifferenti, perché, se le consideriamo rivolte direttamente a noi, scuotono. Quante volte abbiamo detto in certe circostanze che noi avremmo agito diversamente? Ci sono persone malvagie che vivono a lungo e nel benessere, mentre brave persone pie vengono falciate nella loro giovinezza. Chi di noi avrebbe fermato l'attività più che redditizia di Paolo nel predicare l'Evangelo in una prigione? Chi di noi avrebbe fatto crocifiggere Gesù a 33 anni nel pieno del suo ministero quando poteva succedere a 60 anni? Chi non ha interrogativi, chi non discute con Dio, può darsi che abbia una fede debole e insicura. Chi ama la giustizia e la santità freme alla vista dell'ingiustizia e del dolore ingiusto, ma poi deve chinare il suo capo alla presenza di Dio e accettare che le vie di quest'ultimo non sono le sue vie. Dio è giusto. Questo è il grande messaggio del Vangelo. Dobbiamo predicarlo quando tutto va bene, ma soprattutto quando siamo di fronte ad una apparente ingiustizia negli eventi della vita. Esponiamo a Dio i nostri dubbi e interrogativi. Lui non si scandalizza. E non commettiamo l'errore di Giobbe, uomo integro e retto, il quale temeva Dio. Fuggiva il male, ma condannava l'operato di Dio. Il terzo discorso di Elihu: Dio si cura della tua giustizia. In questo discorso Elihu difende la sovranità di Dio in risposta all'accusa che Giobbe rivolge a Dio. Perché non lo compensava per la sua innocenza? La risposta di Elihu è duplice. A. Siccome Dio è supremo, egli non è influenzato in un modo o in un altro dall'innocenza o dal peccato dell'uomo. E B. Dio non risponde a causa della superbia dell'uomo. Leggiamo nel capitolo 35 dai versetti 1 a 3. 35, 1 a 3. Poi Elihu riprese il discorso e disse: «Credi tu d'aver ragione quando dici, la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Infatti hai detto, che mi giova? Che guadagno io di più a non peccare?» Come poteva Giobbe anche solo sperare che Dio difendesse la sua innocenza quando allo stesso tempo insisteva che questa non aveva alcun valore davanti a Dio? Perciò Elihu continua a far notare a Giobbe le assurdità delle sue affermazioni. All'inizio Giobbe aveva detto di essere giusto. Poi aveva continuato dichiarando che Dio è ingiusto. Ora Elihu fa notare che i discorsi di Giobbe vogliono arrivare a dire che egli è più giusto di Dio. E questo mi sembra normale, perché quando uno crede di essere nella verità e Dio nell'errore, allora la conclusione più logica è che l'uomo si ritiene più giusto del suo creatore. Ma questo discorso Elihu l'aveva già affrontato prima. Comunque, i primi tre versetti mostrano che Giobbe si lamenta perché secondo lui non serve a nulla essere giusto, non vi è vantaggio a non commettere peccato. Elihu allora continua, 35, 4 a 7. Risponderò io a te e ai tuoi amici assieme a te. Contempla il cielo e osserva. Guarda le nuvole, che sono più alte di te. Se pecchi, che effetto ha su di lui? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che cosa gli dai o che cosa riceve dalla tua mano? A questo punto Elihu risponde con delle domande riassunte così. Che danno o che beneficio puoi recare a Dio? Elihu invita Giobbe a guardare in alto e osservare il cielo, cioè il luogo dove abita Dio, e gli chiede in che modo si può intaccare un Dio così in alto e lontano. Se Dio fosse vicino all'uomo, se dipendesse dall'uomo, allora quello che fa lo riguarderebbe, ma dal momento che Dio è l'Altissimo, colui che abita nei cieli, è impensabile che l'uomo parli in termini di danno o guadagno. Questi discorsi sono puramente umani, ma non intaccano l'essenza di Dio. In merito a Dio, Agostino fece una bella preghiera. Io esisto per tua bontà. Non avevi bisogno di me, né io sono un bene da cui tu possa ricevere aiuto. Se mi metto al tuo servizio, non è che tu abbia a faticare di meno, né è menomata la tua potenza se ti viene a mancare il mio ossequio. Non è che ti debba rendere culto allo stesso modo che coltivo la terra, così che se non ti coltivo tu resti incolto. Semmai sono io che devo servire te e renderti culto perché riceva del bene da te che già mi hai dato l'esistenza ricca di ogni bene. Dunque, dopo aver detto a Giobbe che Dio non è influenzato negativamente dai peccati dell'uomo, così come non trae profitto dalle condizioni di giustizia dell'uomo, e in questo senso le opere per essere salvati non servono proprio a nulla, Elihu aggiunge, la tua malvagità può solamente nuocere a un uomo come te, e la tua giustizia può solamente giovare a un figlio d'uomo. Quindi, tutto quello che l'uomo fa riguarda l'uomo, si ripercuote positivamente o negativamente sulla razza umana. Infatti, quando Adamo peccò, non fu Dio ad esserne contagiato, ma la sua razza e il creato. È importante questo concetto, soprattutto per coloro che pensano di guadagnare il cielo con le opere. Le opere buone servono solo per noi, per star bene noi e coloro che ci circondano. A Dio non diamo niente, questo concetto deve essere chiaro per noi, affinché non ci gloriamo e non pensiamo di aver arricchito Dio dopo aver fatto la sua volontà. Per questo Agostino disse, «Io non sono un bene da cui tu possa ricevere aiuto». Elihu non si ferma qui e aggiunge 9:11. Si grida per il gran numero delle oppressioni, si grida in cerca di aiuto a motivo della forza dei potenti, ma nessuno dice «Dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che a noi insegna più cose che alle bestie dei campi e ci fa più saggi, degli uccelli del cielo?» Elihu fa una considerazione che ha un'attualità impressionante. Tutti siamo sempre pronti a lamentarci, siamo svelti a trovare errori e ingiustizie, ma nessuno coglie l'occasione di invocare Dio, di cercare il suo volto. Nessuno di noi ha il diritto di lamentarsi con Dio se le situazioni sono negative, quando non lo ringrazia per le cose positive. Nel giorno dell'avversità noi dobbiamo riflettere, perché Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nelle nostre coscienze, ma grida nelle nostre sofferenze. Nei giorni felici siamo chiamati ad essere riconoscenti verso Dio. È vero che la vita è cosparsa di sofferenze, ma è anche vero che vi sono momenti felici. Dio ci nega, per la natura stessa del mondo, la felicità stabile e la sicurezza che desideriamo tutti, ma di gioia, piaceri e divertimento ne ha disseminati dappertutto. Un altro motivo di riconoscenza verso Dio è perché Lui ci rende più intelligenti della bestia, il che vuol dire che ci dà occasione di cercarlo e di conoscere i Suoi misteri, che siamo partecipi dei Suoi piani, cosa che gli animali non possono fare. Ricordiamoci che noi siamo fatti ad immagine di Dio. Siamo le sole creature che possano avere con Lui un rapporto di intesa, e già solo questo motivo dovrebbe spingerci a essere riconoscenti, a lodare Dio. Come può un ateo essere riconoscente? Come disse qualcuno, il peggior momento per un ateo è quando si sente grato e non sa chi ringraziare. Non ringraziare il creatore, a mio avviso, è il primo errore della creatura umana. Quando ero ancora ragazzo, mosso dallo Spirito Santo, mi inginocchiavo in un prato e ringraziavo Dio perché mi aveva creato e desideravo conoscerlo. Non credo di essere molto diverso da molti, ma la mia riconoscenza nasceva solo dal fatto che ubbidivo all'azione dello Spirito Santo. Il salmista disse: «Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, cerco la tua faccia, o Eterno». Salmo 27:8. Dovessi scegliere solo due parole della parola di Dio che facessero felici le persone, che le rendessero gradite a Dio e che garantissero una convivenza ottimale e riuscita, sceglierei solo un imperativo: siate riconoscenti, Colossesi 3:14. In quest'ordine è racchiuso il segreto per conoscere Dio, per avere una vita abbondante, fruttuosa, appagata. L'atteggiamento negativo di alcuni verso la vita mi ha sempre stupito. Tutto è ragione di lamentele, ci è insofferenza verso tutto. Con un simile spirito si preclude la possibilità di conoscere colui che è la fonte di ogni bene, non di onora Dio nel godere copiosamente ciò che Egli ha provveduto in questa vita. Senza riconoscenza il dolce diventa amaro, il bello diventa brutto. Generalmente nei giovani si inculca l'obiettivo di avere denaro e successo, ma non si insegna loro la necessità di essere riconoscenti per poter godere di ciò che già si possiede. Chi non è riconoscente ha una insoddisfazione e inquietudine di fondo, cova nel cuore un odio verso la vita e ovviamente anche verso Dio. Non lo dicono apertamente, perché non sta bene, ma in molte conversazioni vertenti su cose religiose, per quanto essi parlino, sì, di Dio con un rispetto religioso, il loro comportamento esalta molto bene il rifiuto che alberga nel loro cuore verso la vita, così come Gesù Cristo l'ha concepita, creata ed imposta. Tali persone non godono di ciò che la vita offre di positivo, anche se Dio ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Ecclesiaste 3:11. È vero che la situazione attuale della creazione non corrisponde più a quella iniziale, che tutto è corrotto, ma di gioie e piaceri la vita è comunque piena. Elihu arriva alla conclusione del suo discorso 35:12-13. Così si grida, ma Dio non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Certamente Dio non darà ascolto a discorsi vuoti, e l'Onnipotente non vi farà attenzione. Questa logica conclusione era inevitabile. Visto che l'uomo si lamenta del continuo, si lamenta e non cerca Dio, allora egli non risponde, non si fa conoscere, perché in fondo il suo atteggiamento è arrogante, e non vi è maggior peccato che la superbia. Come disse lo scrittore Lewis, secondo i maestri cristiani, il vizio per eccellenza, il male peggiore, è l'orgoglio. In confronto a questo, l'impurità, la collera, l'avarizia, l'ubriachezza e via dicendo, non sono se non punture di zanzare. La superbia impedisce all'uomo, credente e non, di conoscere e di accedere a Dio. Causa la superbia, Dio non fa attenzione alle preghiere. Dio non è in obbligo di rispondere, e questo dobbiamo tenerlo in mente. Tanto più, egli non risponde a chi parla in modo sconsiderato, a chi dice cose assurde. Giobbe stava dicendo cose assurde, e allora Dio non gli avrebbe risposto. Però Elihu lascia un filo di speranza. 35:14. Anche se tu dici di non vederlo, la tua causa sta davanti a lui, e tu devi aspettarlo. Questo aspetto di Dio dovrebbe consolare ognuno di noi. Anche se per noi sembra che Dio non intervenga, anche se la situazione non ha un immediato sbocco, dobbiamo ricordarci che il nostro dolore è conosciuto, i nostri problemi sono presenti davanti a Dio, quindi non dobbiamo lamentarci, ma solo aspettare. Cosa vuol dire aspettare? Significa sapere attendere il momento dell'intervento di Dio, e per questo il momento dell'attesa è uno dei più difficili. Noi abbiamo sempre fretta, ma i nostri tempi non sono quelli di Dio. Anche Abramo, il padre della fede, aveva fretta di avere un figlio. Lo fece, ma ancora oggi tutto il mondo, e porta le conseguenze. Non saper aspettare Dio, questa è la causa di tanti dolori. Dal momento che non è volentieri che Dio umilia gli uomini, Lamentazioni 3, 25-33, è buona cosa aspettare in silenzio l'intervento di Dio. Notiamo, aspettare meno e meno silenzio, ciò significa senza lamentele, senza brontolii, senza rancori. La gratitudine verso Dio e verso gli uomini è l'antidoto per una insensata lamentela, che non ci rende graditi a Dio o a un Dio che si cura di noi. Dobbiamo ricordare che la relazione dell'uomo con Dio non è un accordo giuridico in cui egli è obbligato a compensare l'uomo per ogni buona azione. Stabilito questo, tutto ci è dato per grazia, e grazia produce riconoscenza. Conclusione del terzo discorso. Elihu aveva iniziato a parlare perché gli amici più vecchi non erano stati in grado di rispondere a Giobbe nonostante questo avesse detto delle cose sbagliate su Dio. Nel suo secondo discorso, Elihu aveva difeso la giustizia di Dio e nel suo terzo discorso si era battuto per la sovranità di Dio. Nel suo ultimo discorso, Elihu tratta nuovamente entrambi questi temi, 36:1-5. Elihu proseguì ancora, dicendo, aspetta un po', e ti mostrerò che ci sono ancora cose da dire da parte di Dio. Prenderò la mia conoscenza da lontano, e renderò giustizia a colui che mi ha fatto. Ecco, Dio è potente, ma non disprezza alcuno. È potente nella forza della sua sapienza. Elihu aveva ancora tanto da condividere, e lo dimostra nell'espressione, aspetta un po', egli ricorda l'onnipotenza di Dio. Fino ad ora aveva parlato dell'amore di Dio, della sua giustizia, ed ora parla della sua onnipotenza. E, bello pensare, che Dio è onnipotente ma che non disprezza nessuno. Perché dice questo? Perché uno più è potente, più è tentato a disprezzare i deboli, i bisognosi. Nel libro dei Proverbi leggiamo che il ricco risponde con durezza, 18:23. Mentre l'uomo per una sua inclinazione naturale è portato a disprezzare il più debole, Dio invece, pur essendo potente, è dalla parte di chi soffre, si ricorda di loro. Così si esprime tramite il profeta Isaia. Così dice l'Eterno, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dov è dunque la casa che mi potresti edificare e dov è il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. 66:1-2. L'Eterno si presenta come l'Onnipotente, ma egli è con, oppure opera a favore di, A. chi è umile, B. chi ha lo spirito contrito, cioè colui che soffre, C. chi trema alla sua parola, cioè prende sul serio quello che lui dice. Questi tre aspetti non possono passare inosservati perché costituiscono i principi base per avere un giusto rapporto con Dio. L'Eterno Dio è con gli umili. Perché egli è umile, perciò, come il ferro e l'argilla non possono amalgamarsi, così chi non possiede la natura umile di Dio non può avere con lui comunione. L'Eterno Dio è anche con chi è afflitto. Questo messaggio è di importanza vitale in un mondo dove la sofferenza si respira come l'aria. Perciò, quello dell'afflizione non è il momento per scoraggiarsi, ma piuttosto per rallegrarsi. Perché Dio non è mai stato così vicino. Forse l'aspetto più importante di questi tre principi è che l'Eterno Dio è con colui che trema alla sua parola. Che Dio sia con gli umili che sia con chi soffre è un fatto oggettivo, ma per chi osserva la parola di Dio, la realtà della presenza di Dio diventa soggettiva, cioè un'esperienza che forma il carattere di una persona. Ci sono delle persone umili, molte hanno occasione di ascoltare la parola di Dio, ma pochi, pochissimi, hanno il coraggio di adeguare il loro cammino secondo i principi di Dio. La stragrande maggioranza delle persone osserva le regole di Dio religiosamente senza porvi il cuore, mettendo più in pratica le regole sociali che quelle di Dio. Lo dimostra il fatto che quando le regole sociali mutano e sono contrarie al volere di Dio, anch'essi mutano, seguendo queste piuttosto che la volontà divina. Ecco perché Giacomo nella sua lettera invita coloro che avevano posto fede in Gesù di essere dei facitori della parola e non soltanto uditori. Elihu continua il suo discorso 36:6-14. Egli non lascia vivere il malvagio e rende giustizia agli oppressi. Non distoglie i suoi occhi dai giusti, ma li fa sedere per sempre con i re sul trono, così sono messi in alto. Se però sono legati in catene e trattenuti in lacci di afflizione, allora mostra loro le opere loro e le loro trasgressioni, perché si sono insuperbiti. Egli apre così i loro orecchi alla correzione e li esorta ad allontanarsi dal male. Se ascoltano e si sottomettono, finiranno i loro giorni nel benessere e i loro anni nelle delizie. Se però non ascoltano, periranno per la spada, moriranno senza conoscenza. Ma gli empi di cuore accumulano ira, non gridano in cerca di aiuto, così muoiono ancora giovani, e la loro vita finisce tra i sodomiti. Ancora una volta, Elihu presenta Dio come colui che rende giustizia, anche se al momento non tutto è chiaro. E ancora una volta, vi è la promessa che se una persona riflette nella sofferenza, il Dio gli parla. Il libro di Giobbe, affrontando il tema della sofferenza, pone in evidenza questa insistenza sulla necessità di non ribellarsi nel giorno della calamità, ma di farne oggetto di riflessione. Le parole del libro dell'Ecclesiaste sono più che opportune. Considera l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto storto? Nel giorno della prosperità sii allegro, ma nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno che l'altro, perché l'uomo non scopra nulla di ciò che accadrà dopo di lui. Ecclesiaste 7:13-14. Elihu ribatte del continuo sul tema della sofferenza. 36:15. Dio libera gli afflitti mediante la loro afflizione e apre i loro orecchi mediante la sventura. Probabilmente questo è il versetto chiave del discorso di Elihu e, a mio parere, forse di tutto il libro. L'afflizione è il mezzo che Dio usa per liberare gli afflitti, cioè la sventura e il dolore sono mezzi che Dio usa per impedire all'uomo di fare del male, per formare il nostro carattere, per farci alla fine del bene, per liberarci. È difficile da comprendere, soprattutto quando si è nel crogiolo del dolore. Un esempio possiamo vederlo nella vita di Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Venne venduto dai suoi fratelli a circa 17 anni, venne sedotto dalla moglie del suo padrone, andò in prigione ingiustamente, eppure tutto questo servì per prepararlo perché potesse diventare il potente viceré di Egitto e perché potesse svolgere con umiltà questo compito. Certo, egli passò più di 10 anni nella sofferenza, ma essa era indispensabile perché poi non si inorgoglisse, vedesse in ogni cosa la mano di Dio. Quello che interessa a Dio non è tanto la nostra sofferenza, ma che noi possiamo essere in ogni cosa all'altezza della situazione. Se abbiamo sofferto, capiremo chi soffre, saremmo meno duri nei giudizi, meno inflessibili. Queste virtù hanno più valore di una vita tranquilla. Se anche Gesù, il Figlio di Dio, dovette soffrire per capire, per imparare, chi siamo noi per evitare la dura scuola di Dio? Elihu continua il suo discorso. Dio vuole sottrarre anche te dal morso dell'avversità, per portarti in un luogo ampio senza restrizione, con una tavola imbandita piena di cibi succulenti. Ma tu colmi il giudizio del malvagio, e il giudizio e la giustizia ti afferreranno. Se cercate collera, bada che egli non ti porti via con un sol colpo, perché una gran somma di denaro non potrebbe allontanarlo. Darà forse valore alle tue ricchezze, quando egli ha oro e tutte le risorse della potenza, non desiderare la notte, in cui la gente è portata via dal suo luogo. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla. All'afflizione, ecco, Dio è eccesso nella sua potenza. Chi può insegnare come lui? Elihu fa presente ciò che abbiamo considerato. L'Eterno agisce duramente con Giobbe perché desidera il suo bene. Dio vuole evitare a Giobbe dei dolori inutili e la sofferenza raggiunge questo scopo. Però vi è un pericolo. Perciò Elihu avverte Giobbe di stare attento come parla, perché Dio non intervenga in modo duro. L'avvertimento di Elihu. guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. È di un valore attuale impressionante. La vita è fatta di scelte, e quante volte per evitare di soffrire scegliamo la via più breve e più facile anche se è scorretta. Un esempio lo vediamo negli affari e nei sentimenti, due aree molto importanti della nostra vita. La parola di Dio ci dice che è meglio un povero che cammina nella sua integrità che chi è perverso di labbra e anche stolto. Proverbi 19:1. Il che vuol dire che è meglio vivere alla giornata che essere disonesti e stare meglio. Gli affari sono quelli che mettono la prova alla nostra fede, forse più di tante altre cose. Nella vita si deve scegliere se guadagnare di più, se avere di più in modo non tanto ortodosso, oppure accontentarsi di meno, guadagnare di meno, ma essere a posto con Dio. E meglio essere poveri, ma fare la volontà di Dio che essere ricchi, e sapere di non essere a posto. Ci comportiamo così. Un povero vale più di un bugiardo. Chi lo ha detto? Il mondo? No, Dio. Siamo tutti d'accordo? Che essere bugiardi è sbagliato, ma se questo serve per arricchirsi, allora che scelta fare? Se scegliamo la ricchezza, allora il nostro Dio è il denaro, allora non serviamo più Dio ma Mammona. E così è nel campo dei sentimenti. Quando il cuore è coinvolto con una persona con la quale non è lecito avere un rapporto, spesso sorvoliamo sui principi di Dio e ci mettiamo sotto un giogo che non è per noi. Ma Elihu continua il suo discorso, ecco Dio è eccelso nella sua potenza, chi può insegnare come lui, chi mai può imporgli le vie da seguire e chi può dirgli tu hai fatto male? Ricordati di magnificare le sue opere, che gli uomini hanno cantato, tutti gli uomini le ammirano, il mortale le può contemplare da lontano. Sì, Dio è grande, ma noi non lo conosciamo e il numero dei suoi anni è imperscrutabile. Ancora una volta Elihu ricorda a Giobbe la grandezza di Dio. Nessuno può condannarlo, nessuno è in grado di giudicarlo. Questa deve essere la prima presa di coscienza di ogni essere umano. Senza questa premessa, non si può avere il giusto atteggiamento verso Dio. Mentre l'uomo vuole Dio sul banco degli imputati, egli deve di sua spontanea volontà scendere dal capo di accusa e mettersi umilmente ad ascoltare. In effetti, dopo che Giobbe è stato ripreso giustamente da Elihu, Dio parla direttamente al patriarca. Solo in quel momento Giobbe si rende conto di aver giudicato malamente Dio e confessa umilmente. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. 42. 5 a 6. Giobbe aveva imparato la grande lezione della vita e conosciuto il grande dono che la sofferenza contiene in sé. Sapeva ascoltare Dio e l'Eterno da parte sua aveva ottenuto il suo obiettivo, la conoscenza di Dio. Se Dio è veramente tutto, allora preghiamo, o Dio sia fatta la tua santa e perfetta volontà nella vita che ci hai donato. Settembre 2005. Ellero.